perché è qua nel mio cuore e non saprò che te, e adesso non ci sono più, i fiori sapranno parlare di te. Rose rose per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa, cosa voglio. Sta bene, vabbè, che parla, vada con nina nina, vada con nina nena, ai na, vada, na na na na. Poi quella l'ha ammazzato con Moragno, che l'ha ammazzato, questa qua mi metteva sempre Daniele Tartaruga. Quella, questa qua, l'uomo ragno, che ha ammazzato l'uomo ragno, che l'ha ammazzato, no, chissà, va, e non sapevo che questo disco lo cantavano gli 8-3, mi dico nel mondo, na na na na na na, un medico del mondo, era mette sempre Leonardo, mamma mia. Le manzoni di fiori che vengono alla campagna, e le vorrei regalare, na na na na na na na. Giuli, giuli, bane, bane, tu mi sculi le banane, e mi scuole senza me, no no no no no, sciule sciule, pane pane, tu mi scuole le banane, e mi scuole senza me, no no no no. Bravi, bravi, vabbè. Voglio capire che ti voglio anche tu, arriva di mandare luglio che si veste di novembre, se non arrivi tu, papà, papà. Anche tu, arriva di mandare luglio che si veste il novembre, na na na na na na. Questa qua che non so dove è sua, alla maggiore, che vicino a lei si domino, tra gli occhi suoi un acrimone tinto di blu. Io amo lei, soltanto lei, ma perché mai? Avrò carità, oh, oh, oh, oh, io amo lei, soltanto lei, ma perché mai avrò carità. Questa qui la frequenza, domenica ad agosto, che caso fa? Non spiace un giro a posto.